fa. No, no, fanno così, la portano alla continente, poi dicono che sono strani. Così con i porcetti che arrivano dall'Olanda, cazzo, già lo so qui, non lo usi a me. Arrivano dall'Olanda, dopo sai cosa fanno? Ripassano la fiamma ossidrica sopra per bruciarli, per far vedere che sono sani. Thank you. notizie, bisogna leggere le etichette e vedere un po' se la carne è buona più o meno, oppure conoscere, ripeto, io sono sempre del parere di andare al pastore a prenderlo la roba, solo che è un rischio quando viaggi in pittura, quello è vero, però chi non rischia non pisca, Anche quello è vero. Ma sta a metterlo al posto della rotta di scotto, come ho fatto io. Non ci deve mancare. Non ci deve mancare che non è già che ne ha fatto molto. Adesso più grande stiamo decidendo a comprare le anguille. Lo scorso lo comprate, lo sapete così da rosso, la stata in campo, con lo spiedo, nel cammino, anche maiale con lo cucinato, di uno era già non corretto, poi che era accolto. Funziona. Positivo, vi ringrazio. attimo, riprendete, va, riprendete. Avagava. Codina, codina. Ok, ciao. Ciao Vulcano, da parte mia, se ne copi, eh. Thank you. le diavolo se sembra forte. Non siete sbagliato. Qui non sono problemi. Adesso c'ho il... da recuperarmi il... quello che ti ho detto della notte e poi c'ho un coso, un altri due. Che cosa è andato a spuntare? Comunque ci va un bel forte, io glielo ho detto, l'Argus c'è un bel forte, c'è con più di 100 watt. Ah, mi è cazzato adesso, l'Argus non c'è con 100 watt, c'è con 5-15 watt massimo, c'è io. Su internet io. Cazzo, grazie a foto Gianni, su internet puoi dire quello che vuoi. Se lo metto nel Saturn Echo, la sera 100 watt c'è con 100 watt, che cosa diavolo c'è da quello? Questa invece è una fessiletta che ho letto io nel presente di Natalino. Usciva con 100 watt, invece non è assolutamente vero. Massimo usciva con 22 e 30 watt. Qui voi ci passato, bisognava scendere a 13-15 watt. Quindi non è assolutamente vero. Se vuoi avere un apparecchio che esca con 100 watt, li metti la scheda dentro e 100 watt ce l'ha. Io la scheda ce l'ho, se vuoi me la piazzo e esco con 100 watt, per dire. E la vendi così. No, lì. Vabbè, Natalino ha capito male, perché di noi ha capito sicuramente bene. Però questo qua, se l'Argus 5... Io ho controllato Argus 5000 di X. C'è scritto 100 watt. L'Argus 5000 di X e anche gli altri escono con la scheda, vento e basta, non c'è nulla da fare. Non te ne sono fatte cazzate, ce ne sono stato i genti che sono modificati dentro. Il Saturn Echo, quello, esce con 100 watt e il Saturn Pluto, fatto dalla fabbrica, con lo stesso alimentatore. Esce con 100 watt e basta. Mamma mia, ma siete qua, siete fissati, siete. Le cose che vi scrivono, le cose esce con 100 watt, non è assolutamente vero. E che non è vero, lì c'è la scheda. La lei la pezza dentro, me la pezza dentro, e 500 watt. Il discorso è quello. Però che la parete con 2,5, esce con 100. Non è che esce con 100, la verità si dice. Comunque esce meno di 100. Io quello che ho letto mi sto dicendo, lì, non è che ti stai dicendo, non lo conoscevo nemmeno l'Argus come apparecchio, figurati, non lo sentisco per la prima volta, non lo conoscevo l'Argus come apparecchio, figurati. No, è assolutamente vero, e così anche il presidente, il presidente vanno a 0,40, e così anche vanno a parte, è fissato, le vicende sono massimo 25-15, il discorso è quello lì, invece tutti quanti siete fissati, non esce con 100, esce con 40, no, è assolutamente vero. Se voi scendete con 100 ci mettete nella scheda, lo modifichi, come è stato modificato, entrare, se è stato un ecco, che poi da ragazzi se è stato un ecco, non è stato un turbo, perché c'è 100, la scheda con l'MMS contro il 55 della Lembre, c'è stata dentro ed è uguale, hai capito? Il discorso è quello. Antonio, sei tu che sei rimasto arretrato, ci sono tanti di quegli apparecchi americani su internet che escono con 100 watt e senza mettere nessuna scheda. Li compri che escono già con 100 watt, vai e guarda. D'accordo con te, vado del 20 o vado a 110? Cosa lì? Che vada del 20 o vado a 110? No, vanno direttamente a 12 volts, come gli altri apparecchi. Per dire c'è il Cobra che esce con 100 watt, ce ne sono tanti altri che hanno 100 watt di uscita, insomma, vabbè, non sono apparecchi fatti qua, sono fatti in America, però negli americani si sa che hanno la mania della grandezza in tutto. Ma per forza la maniera grande, scusami, il presidente nascono in America, perché sono fatti lì, ci sono grandi distanze, il discorso è quello, però tu vedi gli apparecchi italiani con 100 watt, non l'ho visto per niente io, la verità, a me tu non mi piace da dentro, escono con 100 e bu, non lo arriva, però gli apparecchi italiani escono con 15, anzi con 5, pure se vuoi, come il Galaxy Saturn Echo, escono con 15 watt, ma non di più. Allora che non leggerate la legge? Questo è qua. Se lo vuoi modificare, però non ce ne sono. Tutti si possono modificare. Nascono così. Però per il momento stiamo contando di quello che c'è. Io sono del parere che modificare non conviene. Basta mettere la scheda esterna, accetto fatte, fa lo stesso concetto, va. È stato un tubo ese concetto, direttamente con l'alimentatore suo, perché c'è la scheda lei, la stessa dentro e la stessa cosa di tutti l'apparecchio monovatto, si rimette la scheda a conto, e la lascia con la scheda a conto, e c'è l'ecco. Quindi le cose, è la stessa cosa, non cambia niente.